Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Un'emergenza sopra l'altra, un'emergenza sopra l'altra. Emergenza neve, emergenza valanghe, c'è arrivata adesso l'allerta per le valanghe, poi il terremoto si è sentito forte. Un'emergenza sopra l'altra, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, così sintetizza bene il sindaco di Ussita nelle Marche. Questa è un'emergenza sopra l'altra, veramente cosa sta vivendo in queste ore, nelle ultime ore, negli ultimi giorni il centro Italia. Non bastava la neve copiosa di cui abbiamo parlato in questi giorni, che ha creato già molti disagi in diverse regioni, è tornata purtroppo a tremare la terra. Quattro scosse di magnitudo superiore a 5 gradi. E poi un centinaio di scosse che sono continuate durante tutto il giorno, e purtroppo l'Istituto per la Nazionale per la Geologia e Vulcanologia ha già previsto che questa sequenza di scosse purtroppo continuerà nei prossimi giorni, e sentiremo poi degli esperti, qui Effetto Notte, nel corso della puntata. Ci occuperemo anche di altri temi, però naturalmente staremo soprattutto su questa situazione così difficile che ritorna e che riguarda le regioni del centro Italia. Per le vostre osservazioni, per i vostri pensieri, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp e SMS, che è 349-238-6666. Lo dico ancora una volta, il numero è 349-238-6666. E vediamo complessivamente, a partire proprio da queste notizie, quali sono stati i fatti principali della giornata. Centro Italia, oltre al maltempo torna l'incubo terremoto, forti scosse con epicentro nell'Aquilano e a Castel Castagna, vicino Teramo, è stato recuperato il cadavere di un uomo di 83 anni sepolto nel crollo della sua stalla, sospese invece le ricerche di un disperso per una slavina a Campo Tosto vicino L'Aquila. Sciame sismico eccezionale, dicono gli esperti, tra poco li sentiremo a Effetto Notte, e prevedono che le scosse continueranno. La protezione civile sta lavorando al limite del proibitivo, assicura il numero 1 Curcio, e il maltempo proseguirà anche domani. Vertice italo-tedesco, Gentiloni in Germania dice no a un'Europa a due rigidità, e la cancelliera Merkel sottolinea quello dei migranti è un problema di tutti. Julian Assange fa dietro front, il fondatore di Wikileaks non si consegna più agli Stati Uniti come promesso, lo sconto di pena al soldato Manning non basta, dice il suo legale, voleva la grazia e la scarcerazione. La strage delle donne, il Senato approva praticamente all'unanimità l'istituzione di una commissione d'inchiesta contro il femminicidio e contro ogni forma di violenza di genere. Clima, la NASA conferma, il 2016 è l'anno più caldo mai registrato, terzo record consecutivo. E per il calcio, il Cesena ha battuto 2-1 il Sassuolo e si è qualificato ai quarti di finale di Coppa Italia. Partiamo quindi ovviamente dalla tremenda situazione delle regioni del centro Italia tra maltempo e terremoto. Dicevamo, da diversi giorni Abruzzo, Marche, Umbria erano e sono flagellate tuttora dal maltempo, con la neve che sta creando molti pesanti disagi. Oggi, come se non bastasse, la terra, vi dicevo, è tornata a tremare. Quattro forti scosse oltre 5 di magnitudo e nell'arco della giornata un centinaio di altre scosse. E la sequenza, dicono dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che poi sentiremo, non è destinata ancora a finire. Insomma, un'emergenza neve, Raffaella Calandra, che si somma con quella del terremoto. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Sì, una situazione davvero difficile, soprattutto in Abruzzo, ma anche in Marche e nelle Umbria, e in Umbria e in parte del Lazio, perché appunto all'isolamento già dovuto alle cattive condizioni del tempo si è sommata l'emergenza delle forti scosse che continuano a ripetersi, più di un centinaio da questa mattina, oltre a quelle più forti che hanno superato il quinto grado della scala Richter, per cui la situazione molti comuni, molte frazioni isolate, è quella delle persone che sono bloccate in casa come topi, ci hanno detto. Racconti davvero drammatici arrivano da queste zone di famiglie bloccate in casa dalla neve che chiude porte e finestre, che fa crollare tetti e lascia senza elettricità, in alcuni casi anche senza riscaldamenti delle abitazioni, compresi alcuni moduli abitativi provvisori, dove si trovano degli sfollati degli ultimi terremoti di agosto e del e di fine ottobre, strade rese impraticabili dalla neve e treni per molte tratte interne, soprattutto in Abruzzo, interrotti. Come ricordavi nei titoli, è stato trovato senza vita un allevatore a Castel Castagna, un anziano ottantenne colpito appunto dal crollo del tetto della sua stalla, mentre sono state interrotte le ricerche di un uomo dato per disperso a Campotosto, uno dei comuni più isolati dove le comunicazioni sono più difficili, dove abbiamo rintracciato la vice sindaco Gaetana D'Alessio, che era lei stessa prigioniera della sua casa tra scosse e neve. Sentiamola. Mi ha chiamato Errani che i soccorsi erano arrivati a Campotosto, però ancora lo sgombero vero e proprio non è stato effettuato. Io sto nella frazione di Macioni, non è arrivato ancora nessuno. È tragica perché le scosse si sentono in continuazione, però continua a fare bufera. Con le scosse, ma siete bloccati dalla neve? Bloccati, sì. Dentro casa non può uscire. Cioè si è come bloccati, come sì, topi, bloccati, lei ha detto? Sì. Non si può scappare perché la neve è talmente tanta che i nostri mezzi non sono più adeguati, ci serve cose più grandi per rimuovere insomma questa cosa. Io non so quanto tempo ci vorrà, però l'importante è che aprono per farci almeno uscire e andare su delle strutture insomma più adeguate. Cioè voi vi sentite come prigionieri delle vostre case? Sì, non possiamo uscire, questo è il problema, perché a Campotosto ci sono stati dei crolli, è crollato il municipio, insomma qualcosa gli è crollato sopra, quella struttura era agibile. Cioè quindi c'è il problema di famiglie che sono rientrate nelle case dopo le scosse vecchie e che adesso hanno avuto terremoto e neve? Sì, io non è che la mia casa è agibile, lo è ancora, credo, boh, non lo so, fuori non riesco a vedere niente. Vi serve insomma l'arrivo dell'esercito il prima possibile? Sì, solo questo chiediamo, perché almeno questi pochi che siamo in paese ci mettiamo in delle strutture almeno per la notte, insomma più sicure. Chi è nei moduli abitativi provvisori? Sì, ce ne stanno qualcuno. Sono anche rimaste senza elettricità, al freddo? Sì, non sappiamo come fare, capito? Sta facendo adesso la scossa. E questa appunto la vice sindaca di Campotosto, grazie Raffaella Calandra, ciao Raffaella. E ciao, tante Roberta. Sono le richieste appunto di soccorso, testimonianze, poi sentiremo. A proposito dello sciame sismico, i vulcanologi hanno detto, e i sismologi, che è veramente uno sciame sismico eccezionale, prevedono che le scosse appunto continueranno. La protezione civile sta lavorando al limite del proibitivo, assicura il numero uno della protezione civile Curcio. C'è la difficoltà di operare. E su questo lasciatemi sottolineare anche la difficoltà degli operatori che in queste condizioni stanno affrontando situazioni anche difficili e in alcuni casi al limite del proibitivo. Parliamo adesso del vertice italo-tedesco. Gentiloni, presidente del Consiglio, ha incontrato la cancelliera Merkel a Berlino. Il presidente del Consiglio boccia la flessibilità a corrente alternata, così l'ha definita, l'idea di un'Europa a due rigidità tra conti ed emergenza migranti. Sul caso Fiat Chrysler ha detto ci sono regole che ognuno quindi rispetti le sue, e intanto la cancelliera Merkel ha detto sull'immigrazione bisogna dire che riguarda tutta l'Unione Europea. Poi ci collegheremo direttamente con Berlino per sapere più dettagli insomma di questo incontro. Intanto c'è attesa per il faccia a faccia Padoan-Moscovici domani a Davos, dove c'è il Forum Mondiale dell'Economia, dopo la richiesta di correzione dei conti. E sull'emergenza migranti, Commissione Europea in pressing sull'Europarlamento perché si concluda presto la riforma del meccanismo di Dublino, e intanto slitta in Italia la presentazione del nuovo pacchetto immigrazione. In plenaria all'Europarlamento Jean-Claude Juncker definisce solenne il suo appello. Je lance ici, monsieur le président, un appel. Bisogna concludere la riforma del meccanismo di Dublino entro il termine della presidenza di turno maltese, dice il presidente della Commissione europea. Vorrei che un'agenzia per l'asilo diventasse operativa in fretta, e aggiunge ne va della credibilità dell'Europa. Nel giorno in cui anche il premier Paolo Gentiloni e la cancelliera tedesca Angela Merkel auspicano che la questione migratoria diventi una scommessa comune di tutta l'Europa, Juncker ha detto di deplorare che certi paesi non abbiano adottato decisioni importanti. In Italia, partita la distribuzione ai comuni del bonus di 500 euro per ogni richiedente asilo ospitato, slitta intanto alla settimana prossima l'audizione del ministro dell'Interno Minniti per l'illustrazione del nuovo pacchetto immigrazione, così come l'atteso incontro con i presidenti delle regioni. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso di Julian Assange, che fa dietro fronte, il fondatore di Wikileaks, che aveva promesso di consegnarsi agli Stati Uniti in cambio della liberazione della gola profonda, la prima fonte di Wikileaks, che era soldato Manning, ora transgender, è diventato una donna, non si consegna più agli Stati Uniti. La decisione del presidente americano Obama, dice il suo legale, di ridurre la pena di Chelsea Manning, che verrà scarcerato il 17 maggio, non è sufficiente perché Julian Assange si consegna alle autorità americane come promesso. Uno dei legali di Assange, appunto Barry Pollack, ha detto che Assange accoglie positivamente la decisione di Obama, ma in meno di quanto volesse, aveva chiesto la grazia e la scarcerazione immediata. E poco fa Obama, in conferenza stampa, la sua ultima conferenza stampa da presidente, ha detto: Chelsea Manning ha scontato una dura sentenza in carcere, dice è una condanna assolutamente sproporzionata, ma ha anche aggiunto, tornando appunto sulla questione Wikileaks, dobbiamo continuare a perseguire il giusto equilibrio tra trasparenza, democrazia e sicurezza nazionale, perché ci sono molte persone che tramano contro di noi, che vogliono colpire il nostro sistema finanziario e compiere atti di terrorismo. E sulla Russia, ha detto Obama, intrattenere rapporti costruttivi con la Russia è una priorità degli Stati Uniti, è nell'interesse del mondo, aggiungendo però che con Vladimir Putin c'è stata un'escalation del sentimento anti-americano. E ora in Italia con la politica: non si andrà alle elezioni prima del mese di novembre perché non ci sono i tempi tecnici per andare prima alle urne. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, quanto raccontano nel corso dell'ufficio di presidenza del partito. E poi l'Aula del Senato approva praticamente all'unanimità, con 227 sì e 5 astenuti, il testo che prevede l'istituzione di una commissione d'inchiesta monocamerale contro il femminicidio e contro ogni forma di violenza di genere. La commissione dura in carica un anno, entro il quale dovrà essere presentata la relazione conclusiva e sarà composta da 20 senatori. Vedete che insomma, a parte il fenomeno che continua, la strage delle donne, ma insomma anche continuare a parlarne a livello di informazione, e certamente effetto notte non fa difetto in questo, serve anche per continuare a sollecitare le istituzioni e la politica a occuparsene. E poi la cronaca: sono almeno 9 le donne che avrebbero avuto rapporti sessuali con il parroco padovano e probabilmente con altri sacerdoti, che sono al centro di un'inchiesta della procura euganea di Padova per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione. Le 9 parrocchiane sono state tutte sentite dai carabinieri, ammettendo di aver avuto incontri di sesso con il sacerdote nel frattempo allontanato dalla curia. L'ex parroco resta l'unico indagato, ma intanto un secondo prete, riferiscono le cronache locali, ha confessato agli investigatori di aver preso parte alle orge. Parliamo di TV adesso. Le trasmissioni televisive sono sempre a caccia di ospiti sensazionali. Questa volta però Mediaset pone il veto su 2 personaggi scelti per l'Isola dei Famosi. La notizia aveva creato scalpore. Vanna Marchi e la figlia, concorrenti all'Isola dei Famosi. Con l'enfasi alla perentorietà tipiche dei social network, le reazioni erano spaccate a metà. I favorevoli, perché le due signore hanno pagato i loro debiti con la legge o perché l'intrattenimento non dovrebbe avere funzione pedagogica. I contrari, perché la loro presenza all'isola avrebbe comunque premiato un passato poco edificante, peraltro smascherato sempre dalle reti Mediaset. Ora però la marcia è indietro, annunciata da uno scarno comunicato stampa. Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile non saranno concorrenti del programma, che sarà in onda su Canale 5 dal 30 gennaio 2017. L'editore, si legge nel comunicato, ha giudicato inopportuna la loro partecipazione. E in quell'inopportuna sta tutto il senso della decisione. Chi resta dunque del cast? Tra gli altri, l'inviato Stefano Bettarini, che non era gradito alla conduttrice Alessia Marcuzzi per le polemiche scatenate durante il Grande Fratello. Peccati meno gravi, si parlava di corna messe in piazza. L'ex calciatore è stato perdonato. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di clima, perché il 2016 è stato l'anno più caldo sulla Terra dal 1880, cioè da quando si ha disponibilità di dati a certificarlo. È la NASA e anche l'Agenzia Federale Americana per la Meteorologia, e praticamente la temperatura è stata superiore di 0,94 gradi centigradi, superiore alla media del XX secolo. Si tratta della cifra più alta appunto mai registrata, che supera anche i precedenti record del 2014 e del 2015. Una notizia anche di calcio: il Cesena ha battuto 2-1 il Sassuolo e si è qualificato ai quarti di finale di Coppa Italia. Il Cesena quindi affronterà ai quarti la vincente tra Roma e Sampdoria. E per chiudere, una notizia un po' più leggera: è stata scoperta una falena dal ciuffo biondo dedicata a Donald Trump. Trump. Ha lo stesso inconfondibile ciuffo, biondo, per ironia della sorte vive proprio al confine tra Stati Uniti e Messico, non poteva che chiamarsi Donald Trump, la nuova falena scoperta dal biologo evoluzionista Vrazik Nazari, che la descrive per la prima volta sulla rivista Zokis, proprio la vigilia della cerimonia di insediamento alla Casa Bianca del nuovo presidente americano. L'insetto, che porta il nome scientifico di Neopalpa Donald Trumpi, ha un'apertura alare di circa 10 mm, la testa ricoperta da particolari scaglie giallognole che ricordano appunto la chiacchieratissima acconciatura del tycoon. E con questa notizia un po' più leggera, chiudiamo questa prima parte, il riassunto della giornata. Tra poco cominciamo a approfondire i temi, naturalmente a partire dalla situazione nel centro Italia. Vedo già vostri messaggi e per esempio ci si chiede se non sia opportuno magari che l'Europa, visto che anche Juncker, Presidente della Commissione Europea, ha detto siamo disposti a qualsiasi aiuto nei confronti dell'Italia per tutta queste catastrofi che sta vivendo, allora secondo voi può essere opportuno effettivamente che l'Europa si faccia carico anche di quello che succede in Italia, visto che quei borghi, in particolare nel centro Italia, ma non solo, in gran parte dell'Italia è considerata patrimonio dell'umanità, no? Quindi è giusto che sia anche considerata soprattutto parte d'Europa, che quindi l'Europa, a proposito di aiuti, possa stanziare in modo strutturale dei finanziamenti per sostenere queste aree, questo patrimonio. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, ci ritroviamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Nei primi minuti, come al solito, avete sentito da me, Roberta Giordano, il racconto in sintesi della giornata, dei fatti più importanti. Adesso approfondiamo quella che è stata la notizia più importante per noi, che ha avuto naturalmente eco in Europa e non solo. Tornato l'incubo terremoto, ne parleremo tra pochissimo. Intanto vedo che arriva questa agenzia, pochi istanti fa c'è stata un'altra scossa di magnitudo 4,3 alle 20:32, quindi circa 40 minuti fa c'è stata un'altra scossa, le agenzie lo notificano adesso. I vostri messaggi vi ricordo sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Luca per esempio scrive: sono triste perché seppure lombardo sono abruzzese di adozione, sono veramente prostrato, ho amici laggiù disperati, non ho voglia di parlare. Lo ringraziamo almeno per aver scritto. Davide dice: la situazione per i terremotati col disagio della neve certo è critica da gestire, ma se solo si cominciava a pulire prima di averne tanta di neve, magari ora non ci si trovava in queste condizioni, che dite? Bisognerà chiedere, dovremmo avere anche un collegamento più tardi con la protezione civile, anche se sicuramente è stata oltre a scosse eccezionali anche una nevicata eccezionale. E poi per quanto riguarda possibili aiuti dall'Unione Europea strutturali per quello che è patrimonio comunque europeo e anche mondiale, l'Italia, quei borghi, Amos scrive: certo, è così, gli europei tutti ci chiameranno a cattoni, credo che il governo nazionale e quelli locali di qualsiasi livello abbiano ancora le forze per uscire da questo pantano, bisogna però che tutti facciano il loro mestiere, il loro dovere. Ecco, detto questo, capisco che siamo nella M, dice. Mentre Chiara dice: sono decisamente d'accordo, sarebbe assolutamente il caso che l'Europa finanziasse il recupero di quei borghi, di questa parte d'Italia. Matteo dice assolutamente di sì. Allora, vi ricordo quali sono le notizie principali, se non avete acceso puntualmente alle 21. Terremoto e emergenza neve, il centro Italia in ginocchio, 4 fortissime scosse, poi una sequenza continua, un morto e un disperso in Abruzzo. La protesta dei sindaci, bloccati in casa come topi. Abbiamo sentito prima la vice sindaca di Campotosto e poi arriva l'esercito ed è caduto purtroppo il campanile di Amatrice. Paura anche a Roma, evacuate scuole e uffici, stop alla metro, i presidi mandano gli alunni a casa. La sindaca Raggi però ha detto per ora nessun allarme. E poi il vertice italo-tedesco con Gentiloni, che è andato a Berlino dalla cancelliera Merkel, ha detto no a un'Europa a due rigidità. E poi l'ultimo monito di Obama a Trump nell'ultima conferenza stampa: rispetti la libertà di stampa, ha detto. E nel frattempo c'è stato il dietrofront del fondatore di Wikileaks Assange sul caso Manning, dice: non mi consegnerò perché non è stata data la grazia al soldato ma solo una riduzione di pena. E poi clima: il 2016 è l'anno più caldo della storia, lo conferma la NASA. C'è la difficoltà di operare e su questo lasciatemi sottolineare anche la difficoltà degli operatori che in queste condizioni stanno affrontando situazioni anche difficili e in alcuni casi al limite del proibitivo. Avete sentito il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, che oggi ha fatto questa conferenza stampa e ha detto: noi stiamo facendo il possibile, però lavoriamo al limite del proibitivo. E parliamo naturalmente quindi del martoriato Centro Italia, imprigionato nella stretta tra maltempo, emergenza neve e terremoto, dopo il maltempo che ha imperversato e continua purtroppo a imperversare in quelle zone, creando pesanti disagi, è tornato appunto l'incubo terremoto. Il Centro Italia è tornato a tremare con forza dopo 5 mesi dal sisma che aveva distrutto Amatrice e Accumoli. L'epicentro della prima scossa è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Montereale, in provincia dell'Aquila, vicino ad Amatrice. Migliaia sono le persone bloccate dalla neve, quindi con la paura del terremoto e allo stesso tempo l'impossibilità per molti di muoversi, di allontanarsi. Ne parliamo con Alessandro Amato, che è sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buonasera Amato. Buonasera a voi. Senta, lei, ho visto varie dichiarazioni, ha parlato tra l'altro di una sequenza anomala. In che senso? Di queste scosse? Intanto questi terremoti sono effettivamente sempre un po' diversi uno dall'altro, non c'è una regolarità da una sequenza all'altra. Abbiamo visto già in agosto, poi il 26 ottobre, una migrazione a nord, poi un ritorno verso il centro della zona, adesso questa attivazione della parte più meridionale. La cosa singolare di oggi è stata che ci sono state queste 3, poi 4 scosse, le prime 3 in un'ora, l'altra un po' poco dopo, tutte di magnitudo da 5 a 5.5, lungo una stessa direzione, probabilmente lungo la stessa faglia, e si sono attivate da nord-ovest a sud-est con una migrazione di questi epicentri, quindi un fenomeno abbastanza interessante e peculiare. Non è tanto particolare il fatto dell'attivazione di parti vicine della stessa faglia, perché quello si vede spesso, l'abbiamo visto in tanti terremoti. Questa volta è stato molto puntuale, molto preciso, l'abbiamo potuto mappare con una precisione chilometrica proprio della migrazione di questi epicentri. E come ricordavate prima, appunto, ce n'è stato un altro di magnitudo 4.3 poco fa, sì, di nuovo un po' a nord, questa volta più verso il Lazio, insomma la sequenza è abbastanza complessa. E tra l'altro non è ancora terminata, purtroppo, no? Mi sembra di capire. No, stiamo registrando molti di questi aftershock, alcuni anche appunto abbastanza forti, intorno a 4.5, e di questi, diciamo, e soprattutto di quelli più piccoli, ce ne saranno sicuramente molti ancora per diversi giorni, e vediamo, non possiamo neanche, diciamo, escludere l'eventualità di altre forti repliche di questa magnitudo o addirittura più superiore, perché la zona sappiamo che è molto, molto sismica, ha faglie attive importanti, sono insomma abbastanza note, e adesso dobbiamo cercare di capire meglio questa sismicità di oggi, come si colloca rispetto a quella del 2009, poiché è più a sud del terremoto dell'Aquila, e quella invece degli ultimi mesi da Amatrice in su, e cercare di capire un po' meglio che parti di faglie, diciamo, sono rimaste ancora inattive, che potrebbero muoversi. Questo diceva, appunto, cercate di studiare quali faglie ancora sono attive, però quello che potete dire è che continueranno, ma non si sa quando, no? Beh, continueranno con i piccoli terremoti, sono adesso molto frequenti, ce ne abbiamo rilevati, credo, quasi 200 questi della zona di oggi, e dicevo, questi continueranno sicuramente, questi più piccoli, con qualcuno anche importante. Non possiamo, ecco, sapere se ci sono delle parti di questa faglia o più a sud o più in superficie che magari potrebbero dare anche scosse un po' più importanti. Amato, le faccio un'ultima domanda, non so se può, mi vuole rispondere, nel senso che quasi buona parte d'Italia, no, è sismica, e quella in particolare, insomma, sta soffrendo da diverso tempo. La prevenzione, nel senso, bisognerebbe, come si fa a ricostruire tutto con criteri antisismici? Come si fa a proteggere quei borghi, questo patrimonio così, così importante, non solo per l'Italia? Beh, se parliamo di quelli già colpiti, sicuramente c'è da fare un'operazione importante, che credo in parte sia avviata, anche se siamo agli inizi, di ricostruzione, e sicuramente lì dove si andrà a ricostruire lo si farà con le norme attuali, che sono norme antisismiche di ottimo livello, diciamo. Quindi il problema lì sarà il tempo che ci vuole, i finanziamenti che ci vogliono, le persone che nel frattempo saranno lontane. Però c'è anche un problema in tutto il resto d'Italia, almeno nelle parti più sismiche, dove il terremoto non è avvenuto in questi giorni, non è avvenuto in questi anni, ma sappiamo che potrebbe avvenire anche abbastanza presto, non sappiamo quando, e lì invece ci sono tante amatrici, tante situazioni che sono vulnerabili, e quindi bisognerebbe iniziare anche in quelle zone a lavorare per la prevenzione, magari con accorgimenti, se non per adeguamenti sismici, per dei rinforzi che almeno diciamo, salvino la vita alle persone, e dove magari serve anche con ricostruzioni, abbattimenti e ricostruzioni, dove non ci sono cose diciamo particolarmente belle e di valore da salvare. Insomma, bisognerebbe mettere in piedi un programma pluridecennale per mettere in sicurezza un po' tutte le aree sismiche del paese, che sono tante. Alessandro Amato, io intanto la ringrazio e le auguro buon lavoro. Allora, grazie. Grazie anche a voi, altrettanto. E ora appunto si diceva, mettere in sicurezza prima di tutto le persone, quello a cui sta pensando su più fronti la protezione civile. A questo proposito coinvolgo Paolo Molinari, dirigente del Dipartimento Protezione Civile Nazionale. Buonasera Molinari, grazie della disponibilità. E a proposito appunto dei vostri interventi, sentivamo prima Curcio che diceva stiamo lavorando al limite del proibitivo, sentirei anche dove parla delle popolazioni colpite del sistema di potenziamento della protezione civile. Sentiamo Curcio. La situazione è complicata non solo per questi valori del 5.0, ma ricordo che abbiamo avuto migliaia di scosse dal 24 di agosto, e quindi io credo che la cosa più importante da fare è far sentire alle persone, alla popolazione che sono coinvolte da mesi su questa sequenza, che comunque ci siamo, che comunque stiamo facendo il possibile per dare delle risposte anche dal punto di vista operativo. E poi sentiamolo anche dove parla delle difficoltà legate anche al maltempo, che dovrebbero purtroppo proseguire ancora domani. L'evento soprattutto del maltempo continuerà per le prossime ore, quindi non ci attendiamo nelle prossime 24 ore un'attenuazione, quindi la nottata e la giornata di domani saranno giornate altrettanto difficili per la parte maltempo. E ci aspettiamo, diciamo, da poi domani sera, domani notte e venerdì mattina, speriamo di poter contare su un miglioramento. Questo insomma è Curcio, capo della Protezione Civile Nazionale. Molinari, quindi la situazione è complicata. Voi come state intervenendo? C'era anche, diciamo, come sempre non manca mai, un po' di polemica, no? Tutti questi paesi così isolati già dalla neve, qualcuno dice si poteva forse intervenire prima mentre nevicava? Ma noi stiamo intervenendo già da 3 giorni su questo fronte e abbiamo attivato tutte le risorse disponibili nell'interno del paese, con la collaborazione delle regioni, di tutte le strutture operative, delle forze armate, della polizia, del volontariato, dei vigili del fuoco. E sicuramente è una situazione molto complessa, perché queste nevicate sono nevicate particolarmente intense, di carattere sicuramente straordinario, che comportano la necessità di intervenire, tra l'altro con difficoltà che si sommano a difficoltà. Le faccio solo un esempio. Sì. Abbiamo il problema dell'energia elettrica che manca, ci sono circa 100.000 utenze fuori uso in Abruzzo, piuttosto che nelle 25.000 circa nelle Marche, per le quali c'è uno sforzo veramente impressionante da parte di Enel, nonostante le situazioni veramente difficilissime, perché è difficilissimo raggiungere le cabine dove a causa della neve. Ci sono paesi in cui c'è neve di circa un'altezza di circa 2 metri. La mancanza di energia elettrica comporta una difficoltà anche nell'approvvigionamento del carburante, perché non consente di fare carburante all'interno delle normali stazioni di servizio. Quindi questo comporta un'attività di supporto particolarmente complicata. Questo per fare un esempio. Quindi in effetti ci sono alcune, a causa delle nevicate, ci sono alcune frazioni o paesi che non sono stati ancora raggiunti, perché sono paesi magari situati in montagna e che hanno necessità di arrivare dopo lunghe strade da dover sgombrare con turbine e spazzaneve. Lo sforzo è enorme, deve considerare pure che un'area molto vasta dal punto di vista territoriale, perché è un'area che ricopre, che va da almeno due regioni, in particolare le Marche e l'Abruzzo, più buona parte del Lazio, colpite peraltro dal terremoto dei giorni di agosto e piuttosto di ottobre, e anche dal terremoto di stamattina. Quindi da questo punto di vista lo scorso è veramente complicato. Oggi ci sono stati degli interventi particolarmente difficili da parte dei vigili del fuoco, anche in elicottero, per cui anche oggi però era difficile volare in elicottero a causa delle condizioni meteo avverse. Sono riusciti a fare degli interventi in particolare a Castiglione nel Ferraimondo, dove hanno portato un soccorso e hanno salvato una mamma con un bambino. Insomma, sicuramente non si può parlare e comprendere forse la situazione se non la si vive veramente da vicino, perché è una situazione veramente particolarmente complessa e complicata. No, questo si capisce. Mi scusi, Molinari, invece oggi c'è stata un question time in Parlamento del Movimento 5 Stelle che ha chiesto: ma questi 28 milioni raccolti grazie alle donazioni dei cittadini italiani già dallo scorso terremoto di agosto e raccolti dalla Protezione Civile, quando saranno sbloccati? Guardi, su quello c'è una norma specifica del decreto legge che è stato convertito da qualche settimana in Parlamento, che dispone che questi fondi vengano utilizzati per la ricostruzione. Quindi quelli verranno sbloccati non appena verrà nominato il comitato di garanti che garantirà quello che è il programma di interventi da fare per la ricostruzione, ma riguardano la ricostruzione. Senta, quindi adesso voi state intervenendo anche insieme all'esercito, poi leggevo che partono volontari sia dal nord che dal sud. Assolutamente sì. Ci sono colonne mobili delle varie regioni che stanno affluendo, sono già partite, molte sono già attive, altre stanno ancora affluendo, abbiamo avuto ulteriori disponibilità e vengono praticamente da quasi tutte le regioni, ma moltissime regioni. Provo a elencarle, forse ne dimentico qualcuno: l'Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, Veneto, le province autonome di Bolzano e di Trento. Questo fuori dalla retorica è l'Italia migliore che si muove, no? Quando ci sono queste emergenze, purtroppo insomma si verificano ultimamente. Assolutamente sì, purtroppo dobbiamo anche renderci conto che abbiamo purtroppo delle emergenze che si sommano alle emergenze, e questo non facilita, perché c'erano già operatori sul campo, tra l'altro che sono stati riconvertiti da attività terremoto ad attività antineve, se il termine magari non è particolarmente tecnico, però è personale anche che magari è anche stanco, perché lavora ormai qui da quasi 4 mesi. Immaginiamo. Paolo Molinari, allora facciamo insomma un buon lavoro a lei e a tutti i suoi collaboratori, perché chiaramente la Protezione Civile in questo momento è di fondamentale importanza per riuscire a tenere poi quelle popolazioni, quelle zone, insomma, il più possibile salvaguardate. Immaginiamo anche il panico, la situazione di disperazione in cui si possono trovare, no? Appunto, stretti in questa morsa tra il maltempo e il terremoto. Grazie intanto, Paolo Molinari, della Protezione Civile. Buonasera. Grazie di nuovo. Grazie. Allora, ci prendiamo questa pausa prima di passare al prossimo tema. Intanto, sempre sui possibili finanziamenti dell'Unione Europea, Francesco scrive: possibilmente senza trasformare ancora una volta un terremoto in una cuccagna per lorsignori, come accade per il Belice, Irpini, eccetera. Certo, dice Francesco, va bene, finanziamenti dall'Europa, se fosse possibile, se fosse auspicabile, se volessero dall'Unione Europea, però naturalmente coi controlli necessari. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, ci sentiamo un momento. Venerdì 20 gennaio 2017. Radio 24 vi porta alla cerimonia di insediamento del 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'appuntamento in diretta, all'interno di Focus Economia, pochi minuti prima delle 18. Al portico est del Campidoglio si rinnova una tradizione iniziata quasi 2 secoli fa. I love this country. Thank you very much. Venerdì 20 gennaio, alle 17.50, su Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Abbiamo parlato lungamente con un funzionario della Protezione Civile, Paolo Molinari, di quello che sta accadendo in Centro Italia, anche con il sismologo Alessandro Amato, di questa sequenza piuttosto anomala, questa scia sismica piuttosto eccezionale in questi giorni, a partire insomma dal 24 agosto, queste quattro scosse, tutte molto forti oggi, oltre 5 di magnitudo e poi oltre 200 scosse, diceva, nell'arco delle ultime ore, l'ultima tra l'altro alle 20:32, dicevamo. Adesso torneremo a parlarne con il racconto di un'inviata del Messaggero in una delle zone più in difficoltà, dove ci sono stati i disagi maggiori. Intanto voi con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 proseguite. Cristiano, a proposito di eventuali aiuti da parte dell'Unione Europea, se ne parlava, potrebbero pensare che è patrimonio mondiale e prima di tutto patrimonio anche europeo questi borghi, queste zone dell'Italia che si stanno sgretolando. Dice: se dare e avere si devono frequentare alla pari, l'Europa non può essere uno spettro colpito d'amnesia, anche se in fondo è più terremotata del nostro fragile stivale. Usa le metafore. Antonio dice: sì, ma sta esautorando completamente dalla gestione delle cose il governo italiano per manifesta incapacità di tutelare sia le persone che il patrimonio storico artistico. Al momento Juncker ha detto solo: vi aiutiamo, chiedete voi che aiuti volete. Insomma, è soltanto un'ipotesi. E poi dice Riccardo da Roma: mi permetto una constatazione, esportiamo mezzi spazzaneve in tutti i paesi del mondo, compresi gli artici, dove la temperatura scende a meno 50, la neve arriva normalmente a 4 metri, da noi con 40 centimetri di neve l'ANAS chiude le strade, insomma si meraviglia, dice: stiamo realizzando reti elettriche, telefoniche, automatiche, autonome dappertutto, e poi con questi eventi atmosferici. Comunque ci spiegava il funzionario della Protezione Civile che situazione complessa, in ogni caso, al di là delle polemiche, si è creata. Adesso vi ricordo velocemente le notizie più importanti e tra poco torniamo ancora sull'argomento. Centro Italia, oltre al maltempo, torna l'incubo terremoto, forti scosse con epicentro nell'Aquilano e a Castel Castagna, vicino Teramo, è stato recuperato il cadavere di un uomo di 83 anni sepolto nel crollo della sua stalla. Sospese invece le ricerche di un disperso per una slavina a Campo Tosto, vicino L'Aquila, anche se adesso vedo un'agenzia che dice che sono riprese le ricerche. Sciame sismico eccezionale, lo dicono gli esperti, ne ha parlato Alessandro Amato dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia e Geologia, qui a Effetto Notte. La Protezione Civile con il funzionario Paolo Molinari, che abbiamo appena sentito, ha detto sta lavorando al limite del proibitivo, ha detto anche il capo della Protezione Civile Curcio, che ha assicurato che fanno tutto il possibile e che però purtroppo il maltempo proseguirà anche domani. Vertice italo-tedesco, Gentiloni in Germania dice no a un'Europa a due rigidità e la cancelliera Merkel sottolinea quello dei migranti è un problema di tutti. Julian Assange fa dietro fronte, il fondatore di Wikileaks non si consegna più agli Stati Uniti, come promesso dice volevo che il soldato Manning non avesse solo uno sconto di pena da Obama ma la scarcerazione e la grazia. E poi il clima, la NASA conferma il 2016 è l'anno più caldo mai registrato. Abbiamo parlato molto dell'Abruzzo, naturalmente anche le Marche strette tra neve e sisma, con tante frazioni isolate, un combinato catastrofico, lo ha definito il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli. Ma tornando in Abruzzo, una delle zone, dicevo, più disastrate è la zona di Teramo. Lì è inviata del Messaggero Ania Cantagalli, che saluto. Buonasera Ania. Ciao, buonasera a voi. Leggevo tanti centri isolati, poi c'è stato proprio lì vicino Teramo, no? Questo morto di cui si parla, questo anziano di 83 anni. Sì, esatto, a Castel Castagna, che è stato l'episodio più grave oggi, insomma, registrato in queste lunghe e forti scosse di terremoto che si sono sentite anche qui distintamente nel teramano, e che hanno fatto appunto il paio con una situazione che era già di emergenza per il maltempo, viste le nevicate che sono scese copiose da domenica sera, lasciando comuni del teramano vicino alla montagna isolati, senza luce, senza acqua da 3 giorni. Molti comuni, ci sono ancora persone che non riescono ad essere raggiunte. Non a caso il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha invitato l'esercito a venire nel teramano, ad Atria, a Cellino Atanasio, a tanti altri comuni che non sono ancora raggiungibili. L'esercito è arrivato. È arrivato, non, quindi. Sì, è arrivato, non forse in presenza così massiccia come ci si aspettava, si è richiesta una maggior presenza anche da protezione civile esterna, quella teramana, abruzzese e quant'altro. È una situazione di grande emergenza. Il terremoto di oggi ha aggravato una situazione che era già grave di per sé, appunto, per le grandi nevicate dei giorni scorsi. Oltre al purtroppo deceduto di Castelcastagna, sono state anche recuperate una mamma ed un bimbo a Castiglione Messer Raimondo, fortunatamente vivi, sono stati estratti da sotto le macerie dai vigili del fuoco. Sono arrivate poi all'ospedale di Pescara in ipotermia, adesso si stanno prendendo cura di loro i sanitari, dovrebbero però fortunatamente, da quello che ci risulta, riuscire insomma a cavarsela, almeno loro. Questa situazione appunto c'è da sommare che ci sono ancora 60.000 utenze senza energia elettrica. Sono tante, sono tantissime se ci si pensa bene, perché si parla di utenze, non di persone singole. L'Enel considera più o meno 2,5 persone di media a utenza, quindi poi il calcolo viene abbastanza facile, totale delle persone che sono ancora senza energia elettrica. L'Enel considera di poter ridurre a 10.000 domani le utenze senza alimentazione di energia elettrica, insomma, per una situazione che pian piano si spera andrà migliorando. Certo, non si potrà prevedere la sequenza, lo sciame sismico del terremoto. Come si diceva. Intanto grazie Ania Cantagalli, ricordo inviata del Messaggero lì in Abruzzo. Grazie e buona continuazione, buon lavoro a te allora Ania. Ciao. Grazie. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, ne abbiamo parlato ampiamente della situazione disastrosa, di tantissimi disagi nel centro Italia, abbiamo parlato con un'inviata del Messaggero, con un funzionario della Protezione Civile, con un sismologo Alessandro Amato. Centro Italia, abbiamo detto, oltre al maltempo è tornato l'incubo terremoto e tra l'altro c'è un morto vicino Teramo a Castelcastagna, un uomo di 83 anni sepolto nel crollo della sua stalla, e sono riprese le ricerche di un disperso per una slavina a Campotosto vicino L'Aquila. Sciame di sismico eccezionale, ha detto l'esperto sismologo. E poi, altra notizia importante, il vertice italo-tedesco di cui parleremo tra pochi istanti. L'incontro di oggi avviene in una giornata di nuovo complicata per il nostro paese, quindi io voglio cominciare con un pensiero rivolto, che abbiamo condiviso con Angela, alle popolazioni nelle aree colpite da scosse di terremoto molto serie questa mattina. Per fortuna al momento non risultano vittime, ma certamente il susseguirsi di scosse di questa entità è un fattore di allarme per le popolazioni. Europa 24 notte. Quindi avete sentito Gentiloni al vertice italo-tedesco oggi a Berlino, ha incontrato la cancelliera Merkel e naturalmente ha parlato da lì di quello che è successo in centro Italia, della situazione di cui abbiamo appena finito di parlare, però naturalmente i nodi erano previsti altri da questo incontro, la flessibilità a corrente alternata di cui ha parlato Gentiloni e l'idea di un'Europa a due rigidità tra conti e emergenza migranti. E poi ha parlato anche dell'argomento della Fiat Chrysler. Ne parliamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Buonasera Gerardo, che è lì a Berlino. Buonasera a voi. Quindi diciamo questi gli argomenti principali, no, che si sono affrontati oggi, Gerardo? Sì, questo è il primo incontro ufficiale tra i due, che si erano già visti il 15 dicembre a Bruxelles in occasione del Consiglio europeo, e sicuramente c'è stato un giro d'orizzonte molto ampio sui principali temi dell'attualità europea ed internazionale. L'Italia e Germania hanno una coincidenza, quest'anno condividono le presidenze, l'Italia del G7 e la Germania del G20, e quindi Gentiloni e Merkel si sono prefissi di scrivere insieme l'agenda di questi due vertici, almeno per ridare slancio a quell'Europa dei valori che era quella alla quale aveva lavorato anche l'ex premier Renzi, e in parte sta rinascendo quello spirito di Ventotene, perché appunto dopo Ventotene, quando Renzi si incontrò a bordo della portaerei Garibaldi con Merkel e Hollande, c'era stato poi un incontro a due, Merkel e Hollande, che aveva così un poco creato dei problemi a Renzi. E oggi invece nella conferenza economica italo-tedesca lo stesso Calenda aveva proposto di riunire gli industriali europei e francesi, italiani e tedeschi, e con i ministri, i tre ministri, e quindi ripartire un poco con questo direttorio a tre, proposta subito accolta dalla Merkel. I temi della Dieselgate, dell'SCA, e quindi delle emissioni, i test sulle emissioni di alcuni veicoli dell'SCA, sono passati in secondo piano, nessuno aveva vero interesse a drammatizzare questi aspetti. E Italia e Germania quindi vogliono continuare a camminare insieme, soprattutto su due aspetti, sicuramente l'immigrazione, ma anche una politica di difesa comune, due temi che formeranno oggetto di una riflessione congiunta non solo a Malta il 3 febbraio, quando si terrà il Consiglio europeo di presidenza maltese, ma anche nel Consiglio straordinario che si terrà a Roma il 25 marzo per la celebrazione della 60 anni della firma dei trattati istitutivi della Comunità europea. Grazie Gerardo Pelosi da Berlino. Ciao Gerardo. Grazie a lui. Ciao. Grazie a voi. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Adesso leggevo alcuni aggiornamenti qui dalle agenzie, dall'ANSA. Prima c'era il governatore dell'Abruzzo, il presidente della regione Abruzzo, che diceva che stanno arrivando soccorsi verso un hotel che è lì in Abruzzo, dove sono bloccate una ventina di persone, l'hotel Rigopiano di Farindola, credo che si legga così, Farindola o Farindola, insomma, e persone, più il 20 persone più il personale, i soccorritori stanno andando sul posto con la massima celerità, aveva detto qualche minuto fa, e adesso vedo invece un aggiornamento che una tormenta di neve, e come se non bastasse rispetto a tutto quello che è successo, sta rallentando la marcia dei soccorsi verso l'hotel Rigopiano, che è vicino Pescara, che sarebbe stato investito appunto da una slavina e nel quale, secondo quanto riferito dal presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco, potrebbero esservi delle vittime addirittura. Ecco, c'è questo aggiornamento. Purtroppo anche il gatto delle nevi dei vigili del fuoco sta incontrando difficoltà, gli unici mezzi che stanno procedendo verso l'hotel sono le turbine dei pompieri. Al momento dicevamo negli aggiornamenti di prima che c'è stato un morto nell'Aquilano, è un uomo di 83 anni che è rimasto seppellito sotto il crollo della sua stalla, questo a Castel Castagna, scusate, vicino Teramo, comunque sempre in Abruzzo. E poi c'è un disperso sotto una slavina a Campotosto, che è vicino L'Aquila, e purtroppo appunto è arrivato questo aggiornamento e si spera che non ci siano vittime, come invece prevederebbero i soccorritori a proposito di questo hotel che si trova in montagna, in una zona quindi difficile e impervia dell'Abruzzo. Direi che al momento ci possiamo lasciare, vedo ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, per esempio Andrea che dice: dovere dell'Unione Europea restare a fianco dell'Italia e dei suoi cittadini che in questi momenti difficili stanno dando prova di un coraggio straordinario. Ci riaggiorniamo brevemente alle 22:00.